Capitolo 16. Lawrence, il fiaccone. Lori andò a Nizza con l'intenzione di restarci una settimana e ci restò un mese. Era stanco di girare l'Europa da solo e la presenza familiare di Amy parve dare l'attrattiva della patria allo scenario forestiero in mezzo al quale gli appariva. Durante il suo viaggio aveva sentito la mancanza di quella considerazione in cui era tenuto al suo paese e adesso un po' ne ritrovava. E non c'erano attenzioni lusinghiere da parte di persone strane che gli dessero metà del piacere che gli dava al suo paese l'adorazione delle quattro sorelle. È vero che di tutte e quattro Amy era quella che meno lo carezzava, ma era molto contenta di trovarsi lontana dalla patria con lui e gli si attaccava come alla persona che meglio rappresentava per lei la famiglia, la cui vicinanza le mancava più di quanto non ammettesse. Sicché erano l'uno per l'altra un conforto reciproco e si trovavano molto insieme, a cavallo, a passeggio, ai balli, a perdere il tempo. Perché a Nizza, durante la bella stagione, la gente non è molto attiva. Ma mentre pareva si divertissero insieme senza gran calore, quasi inconsciamente imparavano a conoscersi e scoprivano sempre meglio le rispettive personalità. Amy saliva ogni giorno di più nella stima del suo amico, ma in quella di lei Teddy perdeva, e senza farsi confidenze si rendevano conto ambedue di ciò che succedeva fra loro. Amy cercava di piacere a Teddy e ci riusciva, perché ella gli era molto riconoscente per tutti gli svaghi che lui le procurava e lo ricompensava con quei piccoli servizi ai quali una donna, che sia veramente donna, sa dare un fascino indescrivibile. Lori, per parte sua, non faceva alcuno sforzo, non faceva che lasciarsi portare dalla corrente, cercando di dimenticare e sentendosi per così dire meritevole di una buona parola da tutte le donne perché una di esse era stata fredda con lui. Mostrarsi generoso non gli costava sacrifici ed egli avrebbe regalato a Amy tutte le cose belle che vi erano nelle vetrine di Nizza se lei le avesse accettate. Ma nello stesso tempo egli vedeva che era impossibile mutare l'opinione che ella si andava facendo di lui. E aveva perciò un po' di timore dello sguardo penetrante di quegli occhi azzurri che pareva lo osservassero, lo scrutassero con una sorpresa che era mezzo dolorosa e mezzo sdegnosa. Oggi, disse un giorno Amy, tutti sono andati a Monaco, ma io ho preferito rimanere a scrivere lettere a casa. Adesso ho finito e vado a Varrosa con l'album degli schizzi. Vieni tu? Era una bella giornata e lei lo aveva trovato sul mezzodì in albergo a oziare, come sempre. Perché no? Ma non ti sembra un po' caldo per una passeggiata così lunga? Egli parlava lentamente. Il fresco, l'ombra del salone, in contrasto con l'afa e il riverbero di fuori lo attiravano. Di fuori ho la barouche e Battista sa guidare. Tu non avrai da fare altro che reggere il parasole e badare a conservarti immacolati i tuoi bei guanti. Ribatté Amy con un'occhiata ironica ai guanti di camoscio che erano la grande debolezza di Lori. Ah, allora vengo con piacere. Lori protese la mano per prendere da quella di lei l'album, ma Amy se lo mise sotto il braccio con un gesto un po' dispettoso. Ah, oh, non ti disturbare, te ne prego. Per me non è una fatica, ma per te è troppo, mi pare. Lori sollevò le ciglia e la seguì senza fretta mentre scendeva le scale di corsa. Ma quando furono in barouche, le redini le prese lui e al piccolo Battista non restò che incrociare le braccia e addormentarsi lassù sul seggiolino posteriore. Non litigavano mai, Amy era troppo ben educata, e poi in quel momento Lori si sentiva troppo fiacco, sicché era passato appena un minuto ed egli le lanciava uno sguardo interrogativo sotto l'ala del cappello. Lei rispondeva con un sorriso, e così la piccola nube fu subito dileguata. Fu una magnifica passeggiata, su per le svolte che salivano in mezzo a uno scenario pittoresco, delizia degli occhi che amano il bello. Scendeva da un antico monastero il cantico dei monaci. Un pastore dalle gambe nude, in zoccoli e cappello a pan di zucchero, con la rozza giacca gettata sopra una spalla, pipava seduto sopra uno scoglio. E intorno a lui le capre rozzavano fra i massi o giacevano ai suoi piedi. Passavano i pacifici somarelli grigi, carichi di crinelle d'erba appena falciata, con una bella ragazza in cappellina seduta fra i mucchi verdi. Una vecchia con la rocca per filare. Monelli neri, dallo sguardo dolce, scendevano di corsa giù da certi tuguri fatti di pietre a offrire un mazzolino o un ramoscello carico di aranci. Gli olivi dal tronco nodoso ammantavano le colline col fogliame verde grigio. I frutti dorati piegavano i rami col loro peso. Le grandi anemoni scarlatte fiancheggiavano folte la strada. Più lontano, al di là delle pendici rocciose coronate di verde, si profilavano nette e bianche contro il cielo azzurro d'Italia le Alpi Marittime. Barrosa meritava proprio il suo nome. In quel clima di estate perpetua, le rose fioriscono da ogni parte. Pendule dagli archi affacciate a salutare i passanti fra le sbarre delle grandi cancellate, a far siepe al largo viale, ad alternarsi fra i limoni e le palme pennate su per la collina fino alla villa. Non c'è recesso d'ombra, non c'è banco che invita le persone a fermarsi e riposare che non sia avvolto fra le rose. Non c'è grotta fresca in cui la ninfa di marmo non sorrida entro un ammanto floreale, non c'è fonte che non rifletta il vermiglio, il bianco, il rosa dei fiori chinati a specchiarsi come narciso. Le rose ammantano la casa, pendono a festoni dal ciglio dei muri di cinta, s'arrampicano intorno alle colonne, precipitano in cascate dalla balaustra dell'ampia terrazza dalla quale il visitatore si affaccia alla vista del Mediterraneo scintillante di sole e della città bianca ai suoi piedi. Non ti pare il posto ideale per una luna di miele? Dove hai mai veduto rose come queste? Domandò Amy, arrestandosi ammirata sulla terrazza, a respirare voluttuosamente la ricca ondata di profumo che gli portava il vento. E tante spine, rispose Lori, succhiandosi il pollice dopo un vano tentativo di conquistare una magnifica rosa scarlatta che spiccava, staccata dalle altre, ma un po' troppo lontano per raggiungerla comodamente e afferrarla con la necessaria precauzione. Prova più in basso e scegli quella senza spine, gli disse Amy, e abilmente ne colse tra quelle piccole, color crema, che costellavano il muro alle sue spalle, e gliela mise all'occhiello come un'offerta di pace. Teddy stese il collo e piegò il capo da un lato a guardarle. Aveva negli occhi un'espressione curiosa. Nella parte italiana del suo carattere c'era una sfumatura di superstizione e in quel momento egli era in quello stato, un dolce e amaro, di malinconia, in cui un giovane che ha dell'immaginazione trova un significato in una cosa da nulla e in tutto ciò che accade un alimento per le fantasie romantiche. Aveva pensato a Joe nel tendersi per afferrare la rosa rossa e crudele, perché i fiori dai colori vivi le andavano bene e sovente se ne adornava cogliendoli nella serra. Le pallide roselline che gli dava Amy erano di quelle che in Italia si mettono in mano ai morti, mai nelle ghirlande nuziali, e per un momento gli parvero di cattivo augurio. Per chi? Per Joe o per lui? Ma un istante dopo il buon senso americano prendeva il sopravvento ed egli scoppiò in una risata. Mai da che si erano ritrovati in Europa Amy lo aveva sentito ridere con quel gusto. È un buon consiglio, faresti bene a seguirlo e non ti pungeresti. Ella disse, come gli avrebbe detto una facezia qualunque. Grazie, lo seguirò, rispose Teddy, anche lui scherzando, ma non dovevano passare molti mesi e quel consiglio l'avrebbe seguito davvero. Quando vai dal nonno? Gli chiese Amy poco dopo, sedendo sopra una rustica panchina. Molto presto. In 3 settimane avrei detto così una dozzina di volte. Già, le risposte brevi risparmiano fatica. Ma lui ti aspetta. Dovresti andarci davvero. Lo so, ma si vede che ci tieni alla mia compagnia, eh? E lo sai perché non ci vai? Insisté Amy senza raccogliere l'insinuazione. È la mia perversità naturale, credo. La tua fiacca naturale, vorrei dire. È una vergogna, disse Amy severa. Ah, oh, non mi giudicare tanto male. Pensa che quando sono là, per lui è anche un fastidio. Perciò tanto vale che stia qui, e il fastidio lo do a te invece. Tu lo sopporti meglio, anzi mi pare che dopo tutto si vada benissimo d'accordo tu ed io, disse Lori e si distese sul largo parapetto della terrazza. Amy scosse il capo rassegnata e aperse l'albo degli schizzi, ma si era messa in testa di fargli la morale a quel ragazzo e ricominciò. Che stai facendo in questo momento? Guardo le lucertole. Non questo, voglio dire che cosa intendi fare, cosa vuoi fare. Fumare una sigaretta, se permetti. Non fare lo sciocco, non approvo il fumo e te lo permetto solo se posi per il mio schizzo. Una figura ci vuole. Con piacere, come mi vuoi, tutto disteso, di 3 quarti, coi piedi in terra, coi piedi in aria? Subordinatamente proporrei la mia figura in posizione supina con la tua accanto e il titolo Dolce far niente. Resta come sei. Puoi anche dormire se vuoi. Ho voglia di lavorare sul serio oggi. Disse Amy, energica. Ammirevole entusiasmo, esclamò Lori e si appoggiò soddisfatta a una grande urna di pietra. Ah, cosa direbbe Joe se ti vedesse in questo momento? Gli domandò Amy con impazienza. Sperava di scuoterlo un po'. Cosa direbbe? Direbbe come sempre: va via, Teddy, che ho da fare. Teddy lo diceva ridendo, ma il riso era poco spontaneo e il volto rannuvolato. Bastava quel nome a fargli sentire la ferita non ancora rimarginata. Il tono delle parole e l'ombra sul viso di lui colpirono Amy. Quel tono, quell'ombra, li conosceva, li aveva notati altre volte. Levò gli occhi e arrivò in tempo per vedere l'espressione nuova di Teddy, il suo sguardo duro, amareggiato, pieno di dolore, di dispetto, di rimpianto. Non poté studiarlo perché subito svanì e gli successe l'aria assente di prima. Per un minuto lo stette a osservare con compiacimento d'artista, com'era italiano, così disteso al sole e a capo scoperto, con gli occhi neri pieni di sogno, giacché sembrava avesse dimenticato la sua presenza e si abbandonasse ad una fantasticheria. Somiglia a quella figura di giovane cavaliere addormentato sulla propria tomba, disse, mentre segnava con mano attenta ma sicura la bella linea del profilo che spiccava netto sulla pietra scura. Vorrei essere lui. Ah, desiderio sciocco, a meno che la tua vita non sia rovinata. Ti trovo così cambiato che qualche volta penso. Ma qui Amy si arrestò, gettandogli uno sguardo fra timido e pensieroso che diceva molto più delle sue parole. Lo rivide e capì la preoccupazione ansiosa che ella esitava ad esprimere, e guardandola negli occhi le disse, come altre volte diceva alla madre: sì, tutto bene. Questo le bastò e le tolse un certo dubbio che da qualche giorno la preoccupava. La commosse anche e si capì dal tono cordiale delle sue parole. Oh, son contenta. Non credevo che tu avessi fatto molto male, ma pensavo che potevi aver gettato il tuo denaro in quel brutto Baden-Baden, o perderti dietro qualche sirena francese maritata, o metterti in qualcuno di quei pasticci che secondo voi giovanotti sono d'obbligo in un viaggio all'estero. Non stare così al sole, vieni qui all'ombra, sull'erba, e discorriamo da buoni amici, come diceva Joe quando si andava nell'angolo del soffà per confidarci i segreti. Lori, obbediente, si gettò sull'erba e cominciò a divertirsi, infilando margherite ai nastri del cappello di Amy posato a terra. Eccomi pronto, fuori i segreti, le disse, levandole gli occhi sul volto con interesse evidente. Io non ne ho, comincia tu. Ma nemmeno io ne ho, purtroppo. Credevo che tu avessi qualche notizia da casa. Beh, le ultime le sai già. A te non scrivono spesso? Immaginavo che Gio ti mandasse volumi. Ah, è molto occupata. E io non sto fermo, sicché, come capisci, la corrispondenza regolare non è possibile. Quando lo cominci, il tuo capolavoro, Raffaella? Le chiese poi, cambiando discorso di punto in bianco, dopo un breve silenzio durante il quale egli si domandava se Amy sapesse il suo segreto e aveva una gran voglia di parlargliene. Mai, rispose lei, rassegnata, ma senza esitare. Roma mi ha tolto ogni vanità. Quando ho veduto le meraviglie che ci sono laggiù, mi sono sentita troppo insignificante per vincere. Ho disperato, ho rinunciato a tutti i miei progetti sciocchi. Ma perché? Con tutta l'energia e il talento, è appunto per questo. Il talento non è genio e non c'è energia al mondo che basti, non c'è sforzo che valga a farlo diventare. O grande o nulla. Non intendo di essere un'imbrattatele come ce n'è tanti e perciò ho rinunciato ad ogni tentativo. E che ne vuoi fare della tua vita adesso, se è lecito? Beh, sviluppare gli altri miei talenti e diventare un ornamento della società, se ne avrò l'occasione. Era uno strano dialogo e suonava audace, ma l'audacia ai giovani sta bene e le ambizioni di Amy non erano senza un fondamento solido. Lori sorrise, ma gli piaceva l'animo col quale ella, senza perder tempo in lamentele, si volgeva a un altro scopo quando il primo, quello carezzato per tanto tempo, le veniva meno. Brava, e qui immagino che c'entri Fred Vaughn. Amy Si chiuse in un silenzio discreto, ma nel suo sguardo abbassato c'era un'espressione tale di serietà che Lori si levò a sedere e le disse grave: Eccomi qui, a fare la mia parte di fratello e a interrogarti, me lo permetti? Sì, ma non prometto di rispondere. Oh, mi risponderà la tua faccia se la tua bocca tace. Tu ancora non sei donna di mondo al punto di saper nascondere quello che senti, cara mia. Ho sentito parlare di Fred e di te l'anno scorso e per mio conto penso che se non lo avessero richiamato a casa all'improvviso e per tanto tempo, qualcosa ne sarebbe venuto fuori. È vero? Non spetta a me dirlo, rispose Amy modesta, ma le sue labbra sorridevano e negli occhi le passò una scintilla che la tradiva e non lasciava dubbio. Lei sapeva il suo potere ed era contenta di saperlo. Non siete fidanzati, spero, eh? Chiese Lori, prendendo a un tratto l'aria grave di un fratello maggiore. No? Ma vi fidanzerete se lui torna e ti cade ai piedi secondo il cerimoniale prescritto? È probabile. Ti piace dunque il vecchio Fred? Oh, se voglio, se mi ci metto, mi può piacere. Ma non ti ci vuoi mettere finché non è il momento, è vero? Caspita, quanta prudenza. Per me, senti, Amy, è un buon ragazzo, ma non è. Sempre secondo me, l'uomo fatto per piacere a te. È ricco, è per bene, è cortese, è simpatico, ha bei modi, cominciò Amy cercando di serbare un tono freddo e dignitoso, ma sentendosi arrossire malgrado la purità delle sue intenzioni. Ah, capisco. Una regina della società non può regnare senza denaro, sicché tu hai intenzione di trovare un bel partito per cominciare. Dal punto di vista del mondo non c'è niente da dire, ma in bocca a una figliuola di Mrs. March fa un certo effetto. Eppure è la verità. La risposta era breve, ma la decisione tranquilla con la quale era detta faceva uno strano contrasto con la gioventù di colei che la diceva. Lori lo sentì e tornò a sdraiarsi, con un senso di delusione che non sapeva spiegare. Gli si leggeva nel volto, però. E questo? E il suo silenzio e anche un certo pentimento indispettivano Noemi. Bisognava fargliela la predica, subito. Mi vuoi fare il piacere di scuoterti un po' e di sederti composto? Gli domandò seccamente. Fammelo fare tu, da brava. Oh, se mi ci mettessi ci riuscirei. E Noemi pareva pensasse a far la prova coi mezzi più spicci. Fa pure, ti autorizzo. Ribatté Lori, lieto di avere qualcuno da stuzzicare dopo tanta astinenza dal suo passatempo preferito. Ti arrabbieresti subito? No, con te non mi arrabbio mai. Per litigare bisogna essere in due e tu sei fredda e molle come la neve. Tu non lo sai che cosa sono capace di fare io. Anche la neve produce un bagliore e un brivido se è applicata a dovere. La tua indifferenza per metà è posa. Una buona scrollata ci vorrebbe. Scrolla pure, a me non puoi far male. E forse ti divertirà, come disse il gigante alla mogliettina che lo picchiava. Trattami come un marito o come un tappeto, batti finché non sei stanca, se è un esercizio che ti fa bene. Punta sul vivo, e con una gran voglia di vedergli scuotere quell'apatia che ne faceva un altro, Amy, mentre temperava una matita, aguzzò anche la lingua. Floyd, io ti abbiamo messo un altro soprannome, Lawrence il Fiaccone. Ti piace? Credeva di pungerlo. Ma egli incrociò le dita delle mani e vi appoggiò sopra la testa, dicendo con molta calma: perché no, mica male. Vi ringrazio. Lo vuoi sapere proprio onestamente ciò che penso di te? Non vedo l'ora. Sì? Ebbene, io ti disprezzo. Se avessi aggiunto anche ti odio e gliel'avesse detto con un tono petulante civettuolo, egli ne avrebbe riso. Ci si sarebbe divertito più che altro. Ma l'accento grave e un po' triste che c'era nella voce di lei gli fece spalancare gli occhi e chiedere pronto: E perché, se è lecito? Perché, avendo tutto ciò che occorre per essere un bravo giovane, utile e felice, tu sei un ragazzaccio, un ozioso e un infelice. Siete ben dura, mademoiselle. Devo continuare? Bene, prego, mi interessa. Lo sapevo, gli egoisti amano sempre che si parli di loro. Sono proprio un egoista. La domanda gli sfuggì involontariamente. Era sorpreso perché l'unica virtù di cui andava orgoglioso era la generosità. Sì, un grande egoista, proseguì Amy con un tono calmo, freddo e molto più efficace in quel momento che se si fosse arrabbiata. E te lo dimostrerò, perché ti ho studiato, sai, in tutto questo tempo che sei stato a divertirti e non sono rimasta punto soddisfatta di te. In questi mesi che sei stato all'estero, non hai fatto altro che sciupare tempo e denaro e dare delusioni a chi ti vuol bene. Ma vuoi proprio che un povero figliuolo non si diverta un po', dopo 4 anni che fatica? Non si direbbe che hai faticato tanto. Ad ogni modo, non ti ha fatto un grande effetto, per quanto posso osservare. Quando ti ho riveduto ho detto che avevi migliorato, ma adesso lo ritiro perché eri molto meglio prima, quando sono partita. Sei diventato di una poltroneria vergognosa. Ti piacciono le chiacchiere inutili, ti piacciono i complimenti e l'ammirazione della gente sciocca e non l'affetto sincero e la stima delle persone di giudizio. Col denaro, l'intelligenza, la posizione, la salute e la bellezza che possiedi. Ti piace, sentirtelo dire? Vanità, incorreggibile. Ma è la verità anche questa e devo dirla. Con tutti codesti doni magnifici da usare e da godere, tu non hai trovato da fare di meglio che oziare? Invece di essere l'uomo che potevi e dovevi essere, tu non sei altro che... E qui Amy si fermò con un'occhiata che era insieme di dolore e di pietà. San Lorenzo sulla graticola, terminò Lori con uno scherzo per non sentire di peggio. Ma la predica gli cominciava a fare effetto. C'era nei suoi occhi una scintilla di vita e una espressione fra risentita e dolorosa era successa all'indifferenza di prima. Me l'aspettavo che avresti detto così, osservò Amy. Voi altri uomini ci dite che siamo degli angeli e che vi possiamo ridurre come vogliamo, e poi appena si prova a farvi migliorare, vi mettete a ridere. E da questo si vede ciò che vale la vostra adulazione. Amy parlava con amarezza e finì col voltare le spalle a quella vittima così irritante che giaceva ai suoi piedi. Ma tosto una mano si interpose fra i suoi occhi e la pagina dell'album, impedendole di disegnare, e Lori le disse, facendo la voce del bimbo che domanda perdono: Sarò buono, sai, sarò buono. Ma ella non rise. Aveva parlato sul serio e, dando un colpetto con la matita su quella mano, disse con molta calma: Guarda che mano. Non te ne vergogni? Morbida e bianca come una mano di donna, si vede che non hai mai fatto altro che calzare i guanti più fini di Jouvin e cogliere fiori per le dame. Non sei proprio dandy, se Dio vuole. Vedo con piacere che non porti gli anelli col sigillo grande e col brillante. C'è solo l'anellino che ti ha dato Joe tanto tempo fa. Cara, vorrei che fosse qui adesso a darmi aiuto. Dillo a me. La mano si ritrasse, pronta come era venuta. Il desiderio di avere Lee Joe era stato espresso da Lori con più energia ancora che da Amy. Ella lo guardò, curiosa. Una nuova idea, una rivelazione le passò per il capo, ma egli aveva la faccia coperta per metà dal cappello, come a ripararla dal sole, e le labbra erano nascoste dai baffi. Amy non vedeva che il movimento ritmico del torace nel respiro, così lungo che pareva quasi sospiro. La mano che portava l'anellino di Joe si cacciava fra l'erba come nascondere una cosa troppo preziosa o troppo intima per mostrarla e per parlarne. E in un momento, mille accenni svariati, tanti indizi e sospetti presero forma e significato nella mente di Amy e le dissero ciò che sua sorella non le aveva mai confidato. Si ricordò che non era mai lui, Teddy, a parlare di Joe per primo. Si ricordò l'ombra che gli era passata sul volto poc'anzi. Il mutamento avvenuto nel suo carattere e quell'anellino, portato con tanta costanza, vecchio e troppo modesto per una mano bella e curata. Certi segni una ragazza li legge con molta prontezza e ne sente l'eloquenza. Amy aveva già sospettato che sotto quella novità ci fosse una pena d'amore. E adesso ne fu certa. I suoi occhi vivaci e acuti si inumidirono e quando parlò ebbe nella bella voce tutta la dolcezza che sapeva metterci quando voleva. Lori, so che non avrei diritto di parlarti come ti parlo e se tu non avessi il carattere più buono del mondo ti saresti inquietato, ma ti vogliamo bene, tutte, e siamo fiere di te. Io non potrei sopportare l'idea che a casa mia abbiano avuto sul tuo conto una delusione come l'ho avuta io. Loro però il tuo cambiamento saranno forse in grado di spiegarlo meglio. Lo credo bene, rispose Lori di sotto il cappello, con una voce aspra che riusciva più commovente che se avesse tremato. Me l'avrebbero dovuto scrivere, senza lasciarmi a brancolare nel buio, a parlarti con una severità che forse non meriti. Forse tu meriti più dolcezza e pazienza del solito. Quella Miss Randall non mi è mai stata simpatica. Ora poi mi diventa odiosa. Amy cercava di farlo cantare per poter poi parlare questa volta a colpo sicuro. Al diavolo, Miss Randall! E Lori si scoperse il volto. Non c'era dubbio ora sui suoi sentimenti verso quella signorina. Scusami, io credevo. E qui Amy ebbe un'altra pausa diplomatica. No, tu non credevi niente. Tu sapevi benissimo che io non ho mai amato che Joe. E Lori, questo lo disse col suo tono impetuoso di un tempo e voltando la faccia da un'altra parte. Mi pareva, ma siccome nessuno ne parlava e tu sei partito, ho creduto di essermi ingannata. E Joe non è stata gentile con te? Mi pareva che ti volesse tanto bene. Gentile, e mi vuol bene, ma non al modo che voglio io. Meglio per lei del resto, se io sono quel buono a nulla che tu mi credi. Però la colpa è sua se sono così, e glielo puoi dire. L'espressione si era fatta di nuovo aspra, amara. Amy ne fu turbata e non sapeva a che rimedio ricorrere. Ho avuto torto, non sapevo. Mi dispiace d'essere stata cattiva con te, ma non posso non desiderare che tu riesca a prendere la cosa un po' meglio, Teddy, caro. Non mi chiamare così, col nome che mi dà lei. E Lori, con gesto pronto, levò la mano ad arrestare le parole che Amy gli diceva con lo stesso tono di Joe, mezzo gentile e mezzo severo. Aspetta finché hai provato tu stessa, aggiunse a voce bassa, strappando un gran pugno d'erba. Al tuo posto, io prenderei la cosa da uomo e mi meriterei il suo rispetto se non posso averne l'amore, esclamò Amy, e parlava col tono sicuro di chi in realtà non ha mai provato davvero. Ora Lori si lusingava invece di aver preso la cosa benissimo, senza piagnistei, senza le confidenze di chi va mendicando consolazioni, di essersi portato il suo dolore lontano per soffrirlo tutto da solo, sino alla fine. La predica di Amy gli aveva mostrato la questione sotto una luce nuova. Per la prima volta vide che era debolezza, egoismo, perdersi d'animo al primo insuccesso, e si chiuse in una apparente indifferenza. Si sentì come chi è riscosso e ridesto da un sogno, da una meditazione, e gli sembra impossibile riaddormentarsi. Tosto si levò, dicendo lentamente: Credi tu che Joe mi disprezzerebbe come te? Sì, se ti vedesse in questo momento. Lei non può soffrire i poltroni. Perché non fai qualche cosa di grande che la obblighi ad amarti? Tutto quello che potevo l'ho fatto, ma è stato inutile. Perché hai preso il diploma con lode? Quello era il tuo dovere verso il nonno. Un fiasco sarebbe stato una vergogna per te, con tanto tempo, tanto denaro speso, e quando tutti sapevano che eri in grado di far bene. E non l'ho fatto il fiasco? Come lo vuoi chiamare? Lei mi ama forse? Domandò Lori, avvilito, appoggiando il volto sopra una mano. No, non hai fatto fiasco, te ne convincerai alla fine. Ti ha fatto bene, ti ha mostrato che se ti ci metti qualche cosa sei buono a concludere. Se tu ti proponessi un altro compito, di qualunque genere, ritorneresti subito quello di una volta, coraggioso, felice, e il dolore ti passerebbe. È impossibile. Prova, è inutile stringere le spalle e dirmi ne sai molto tu di queste cose. Io non pretendo di saperne molto, ma so osservare e vedo molto più di quanto supponi tu. Mi interessa lo spettacolo dell'esperienza degli altri, delle loro contraddizioni. Non arrivo a spiegarle, ma ne so trarre profitto per me. Resta pure innamorato di Joe per sempre se vuoi, ma non permettere che il tuo amore ti rovini. È un delitto lasciar perdere tanti bei doni che la vita ti ha regalato solamente perché non puoi avere il dono che vuoi. Ma no. Non voglio più farti la morale. Sono sicura che ti riscuoterai e ritornerai uomo a dispetto di quella ragazza dura di cuore. Per qualche minuto non dissero altro. Lori, seduto in terra, si rigirava l'anellino nel dito e Amy dava gli ultimi tocchi allo schizzo affrettato al quale aveva lavorato mentre parlava. Al fine se lo posò sul ginocchio col braccio disteso e disse soltanto: Che te ne pare? Egli levò gli occhi. Guardò e sorrise. Dovette sorridere perché era fatto stupendamente. La sua lunga persona era abbandonata sull'erba, col volto assorto e lontano, gli occhi socchiusi, il sigaro in una mano e il festone di fumo che saliva ad avvolgergli come un'aureola la testa sognante. «Disegni bene», disse con vera sorpresa e con piacere nel vederla tanto brava. Poi aggiunse con un mezzo sorriso: «Sì, sono proprio io. Sei tu come sei ora, e quest'altro sei tu com'eri», disse Amy, mettendo un altro schizzo accanto all'ultimo. Era molto meno ben fatto, ma c'era in esso una vita, uno spirito che faceva chiudere un occhio sui non pochi difetti della tecnica, e richiamava con tanta vivacità i tempi lontani che, guardandolo, il volto del giovanotto mutò ad un tratto. Era un semplice abbozzo e raffigurava Lori sopra un cavallo restio. Si era tolta la giacca, il cappello era volato via, e non c'era una linea della persona tesa nello sforzo, del volto risoluto, dell'atteggiamento dominatore che non fosse piena di energia e di significato. Il bell'animale, soggiogato, inarcava il collo per la trazione forte delle redini. Con un piede impaziente rampava sul terreno. Teneva le orecchie erette come ad ascoltare la voce del dominatore. La criniera ondeggiante, i capelli del cavaliere agitati dal vento e la sua attitudine eretta davano viva l'impressione del movimento bruscamente arrestato, della forza, del coraggio, della baldanza giovanile, e ne risultava immediato il contrasto con la figura supina, elegante, dello schizzo fatto allora. Lori non aperse bocca mentre andava con l'occhio dall'uno all'altro disegno, ma Amy lo vide arrossire, come se in quei due fogli leggesse e accettasse la lezioncina. Ne fu contenta e, senza attendere che gli parlasse, gli disse con quel tono vivace, un po' civettuolo: «Ti ricordi quel giorno che recitavi la parte di Rerei con Puck e noi ti stavamo tutti a guardare? Meg e Beth avevano tanta paura, ma Joe batteva le mani e saltava, e io stavo sulla barriera a fare il tuo ritratto. L'ho ritrovato l'altro giorno nella cartella e l'ho ritoccato un po' per fartelo vedere. Oh, te ne sono gratissimo. Da allora hai fatto progressi enormi e te ne faccio i miei rallegramenti. Posso permettermi di ricordarti in questo paradiso che all'albergo si pranza alle 5?» Così dicendo, Lori si levò, le rese gli schizzi con un inchino e un sorriso e guardò l'orologio come per dirle che anche le prediche morali debbono avere una fine. Cercava di riprendere la solita aria disinvolta e indifferente, ma adesso non c'era dubbio, era un'affettazione, perché la strigliata gli aveva fatto effetto più di quanto ammettesse. Amy sentì nelle sue maniere un che di gelido e pensò: «Ora l'ho offeso. Bene, se gli giova ne ho piacere. Se mi odia ne sono dolente, ma ho detto la verità e non ritirerei una parola». Per tutto il ritorno non fecero che chiacchierare e ridere. Battista, lassù, nel seggiolino posteriore, pensò che Monsieur e Mademoiselle erano di ottimo umore. E invece si sentivano a disagio. Quella franchezza, come tra fratello e sorella, non c'era più. Un'ombra velava il sole. La loro gaiezza era apparente, mentre in fondo erano malcontenti, tutti e due. «Ci vediamo questa sera, mon frère?» domandò a Amy nel salutarlo sulla porta della zia. «Oh, mi dispiace, ho un impegno. Au revoir, mademoiselle», disse egli, inchinandosi come per baciarle la mano all'usanza degli stranieri. Qualche cosa però nel volto di lui fece sì che Amy si affrettasse a dirgli: «No, Lori, sii te stesso con me e salutiamoci al bel modo di una volta. Preferisco una cordiale stretta di mano all'inglese a tutte le smancerie dei francesi. Allora, ciao, cara». E con queste parole, pronunciate nel tono che piaceva a lei e con una cordiale stretta di mano, Lori la lasciò. La mattina dopo, invece della solita visita, Amy ricevette un biglietto che sulle prime la fece sorridere, ma alla fine sospirare. «Mio caro mentore», diceva, «ti prego di fare i miei addii alla signora zia e di esultare. Lorenzo il fiaccone se ne va dal nonno come un buon ragazzo. Vi auguro un inverno piacevole e possano gli dèi concederti una felice luna di miele a Varrosa. Credo che anche a Fred farebbe bene una strigliata. Dagliela e fagli le mie congratulazioni. Il tuo riconoscentissimo Telemaco. Bravo ragazzo, son contenta che se ne sia andato, di questo non c'è dubbio, disse Amy con un sorriso. Un momento dopo il suo sguardo vagava per la camera deserta e sul volto di lei si diffondeva un'espressione di noia. Già, sono contenta, ma ne sentirò la mancanza.